quello che ascolterete per i prossimi 60 minuti potrebbe urtare la vostra sensibilità. Se siete soggetti privi di umorismo, sarcasmo e autoironia, vi consigliamo di cambiare frequenza o di ascoltarci in presenza di qualcuno estremamente paziente da spiegarvi che vi stiamo prendendo per il culo. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rapper every time. We come and rapper every time. Io te l'avevo detto. We come and rapper. Bentornati e bentornati all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte e tutti. Ciao belli, ciao belle. Bentornati e bentornate a Io te l'avevo detto. Vabbè, c'è sparito Simone. È vero, vabbè, aspetta, lo rifacciamo tanto. Perché metti caso che non si capisce bene. Vai, lo facciamo, benvenuti e benvenute e benvenuto a Io te l'avevo detto. Déjà vu. È vero. Fantastico. È vero, siamo partiti, non l'avevo capito perché poteva succedere anche magari poteva essere successo di tutto. E... No, dici già precedentemente. Un rapimento alieno, una cosa. No. Esatto. Non si sa mai quello che può succedere a Io te l'avevo detto. D'altronde è una trasmissione che da un annetto. Quasi due anni, insomma, la domenica pomeriggio dalle 18 alle 20 insieme a voi ascoltatori e ascoltatrici provo a fare un po' il punto della settimana, insomma, male, analizzando un po' qui un po' là robe varie. Lo facciamo male, sempre malissimo. Un ringraziamento al pubblico in sala, grandi, un applauso al pubblico in sala. Un auto applauso che si vada solo il pubblico in sala, bravissimo. Esatto. E a parte gli scherzi salutiamo i compagni di Militanda Birria e salutiamo Silvio, salutiamo Nino, belli di casa, grandi, e ieri siamo incontrati alla manifestazione e partiamo subito con... c'ha fretta il ragazzo, non so quanto ti vuoi spingere. Abbiamo da fare un sacco di cose entro le 7 perché ci si sono ammucchiati un sacco di interventi in questa prima parte, quindi andiamo avanti entro le 7 dice. Entro le 7 abbiamo un sacco di interventi, esatto. Poi dopo ci rilasseremo fino alle 8 invece con altri oggi vabbè, puntata scoppiettante gli è presa la mentalite come avete capito, mitraglietta, bomba atomica. Andiamo a cominciare un attimo per fare la presentazione dell'argomento giornaliero, ossia bari comuni e privatizzazioni. Ah, non era la scaletta appesa al muro l'argomento di oggi? No, la scaletta è... Oggi c'è la magica scaletta, questa volta è diventata una e trina, nel senso che è una per tre appesa al muro. Pensiamo che abbiamo pensato giustamente di condividerne una molto più grande piuttosto che scriverne tre, un po' come le lotte, no? Esatto. Abbiamo fatto un cartellone più grande, quindi noi uniremo le lotte e le faremo grandi. Mo dopo gli famo una foto. Quindi, beni comuni e privatizzazione. 06 49 17 50, se volete chiamarci. Io te l'avevo detto, Radio Onda Rossa 87.9. Ma oggi mi sa che è trovato occupato perché abbiamo il telefono proprio. Un sacco, veramente, oggi è una puntata che è piena di roba da dire, da fare e di ospiti con cui discutere l'argomento appunto della privatizzazione. In seguito alla manifestazione, come hanno detto anche i compagni della trasmissione precedente di ieri, incredibile manifestazione, bellissima, molto partecipata, infatti poi ci arriveremo, ci abbiamo delle testimonianze proprio calde. Io direi che vogliamo fare, ci andiamo signora a sentire il primo pezzo della giornata appunto così il primo pezzo così a stecca ed è bella, vediamo un po' che lo dedichiamo appunto a i compass che ci hanno preceduto, quindi dagli è forte Pupa Albo. Vedi, mi ha beffato. Cha-cha-cha. They might not realize why lions don't sweat it flies. Sure. We blaze it in a Kingston city. Alba Rosie and the Rascal Joseph. Are you ready? Yeah. Are you ready? send no crocodiles down the acres. We're true to the game, true to the game. We do it for the game, we do it for the game. Too mad for the fame, mad for the fame. Say last of the flame, high of the flame. True to the game, true to the game. True to the lane, true to the lane. Food for the brain, food for the brain. Ready the same. We are Rasta, we not beg no favor. No mix of Jehovah with paper. We are under regime of the savior. We are punish you have no behavior. Are you ready? Are you ready? Why Alba Rosie go send for me? Here's a warning to all the enemies. Here's a warning to all the nemesis. No genocide, this is the genesis. In every tenement there's tenements. So tell every enemy said them couldn't be no friend to me. And if speaking the truth is wrong, then charge me a felony. Man a general in a every penitentiary. Alba tell them this: Freddy, you're not here, I come. I beat the pinky drum until Babylon them done. Music on my weapon, so me don't need no gun. No evil lord, welcome in a Jaja kingdom. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Try dissolve. Sure. Go through it, they use them like a virus. When them a pray a dream fi war us, them not go tolerate the Taurus. To every crocodile, we're moving like Penelope. Whenever you see the lion, keep that same energy. Them sell them soul and I move hyper for adrenaline. Free and no real, so make my ask it, it's my brethren. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, sempre io te l'avevo detto. Yes, yes, yes, yes, Rasta. Dai, dai, dai, dai. Continuiamo con. Ma lui spacca sempre, Pupalbo. Ogni volta che esce, spacca. Gliela molla forte. Mena, ce mena. Ce l'ha. Gliela molla sempre fortissimissimissimo. Allora, cari compagni, torniamo a mega, mega bombardazza con la puntata di oggi. Che, come diceva il buon Matteo, è piena, densa, tutta schioppettante, come e dire. Pregna. E allora vi direi di entrare subito in puntata e iniziamo, certo, facendo un po' il allora. Diciamo prima, e come dicevano anche i compagni prima di noi, parliamo un po' della manifestazione di ieri. Siamo andati, noi facciamo un po' di report, siamo stati ieri e, insomma, dai, raccontiamoci. Una manifestazione, appunto, che è stata chiamata da diverse realtà qui a Roma, ma è una manifestazione nazionale, appunto, quindi che ha visto la partecipazione di un sacco di compagni, di compagne, di compagni veramente venuti da tutto quanto lo stivale, quasi. Quindi molto bella, appunto, manifestazione chiamata per ricordarci che 10 anni fa abbiamo vinto un referendum. Ebbene sì, abbiamo vinto. O meglio, 10 anni fa è stata una grande vittoria. Così pensavamo. Però, insomma, esatto. Come di aver stravinto, ci potevamo... percentuali ben oltre il 90%, insomma. Sì, sì. Come vedremo più in là, insomma, anche parlando con un compagno del forum H2O, parleremo appunto di come ci si è arrivati a questa grande vittoria, perché è stata effettivamente una grande vittoria. La cosa che poi nella seconda parte della trasmissione invece andremo un po' a snocciolare invece è il fatto che poi sì, grande vittoria, però come in tutte quante le categorie nel quale è possibile fare i soldi, anche qui cercano di fregarsene e addirittura di avvicinarsi, insomma, alla privatizzazione di tanti settori, insomma. Vedremo poi piano piano nell'arco di tutta quanta la puntata come che dalla strada al palazzo cambia molto, insomma. Infatti vedremo appunto che questa questa proposta di legge che c'è stata a seguito della vittoria del referendum giace da tempo immemore nella commissione ambiente, nei palazzi del potere, nelle varie commissioni. Quindi insomma, eccoci qua. Quindi che, dicevamo, manifestazione, niente di fatto. Manifestazione di ieri, bella manifestazione, molto partecipata, sì, che è riuscita addirittura a, come dicevano anche prima i compagni di Radio Torre, a strappare un corteo, cosa che non era per niente scontata. Esatto, abbiamo visto diverse volte qua a Roma, anche nelle fasi subito dopo, diciamo, il lockdown, quanto è stato difficile appunto riuscire a sfilare, anche se i numeri erano alti. Sì, sì, sì, quindi infatti, insomma, sempre... Però comunque oggi viaggeremo un po', toccheremo vari ambiti del bene pubblico, diciamo, della... Sì, esatto, perché e quindi non si tratta solo, non si tratta solamente di acqua, come non si trattava solamente di acqua 10 anni fa. C'erano discorsi molto più larghi e vedremo che alcuni sono, anzi quasi tutti, possiamo dire, insomma, che anche in seguito alla vittoria del nostro approccio alle istituzioni, vedremo insomma che sono peggiorati e continueranno probabilmente a peggiorare se non si fanno i giusti interventi. Esatto, un bel io te l'avevo detto, insomma. Esatto, perché, un bel io te l'avevo detto. Comunque, visto che abbiamo questo contributo che abbiamo registrato poco fa, io andrei a sentire la piccola intervista che abbiamo fatto a Renato. Sì. E all'incirca un paio d'ore fa, lui adesso proprio da 20 minuti ha cominciato un'altra un webinar che poi dopo insomma ce lo spiega durante il contributo. Quindi ci andiamo a sentire appunto questo compagno che fa parte del forum H2O abruzzese, se non sbaglio, vero? Sì, già? è nazionale, va bene, ce l'andiamo a sentire. Quindi fra poco, sempre con Io te l'avevo detto, resta l'ascolto di 87.9, perché faremo un bel perché sì. Un sacco di sorprese, dai. Infatti, perché sì, hai ragione. Zan. Diamo il benvenuto a Renato, un compagno che ci aiuta attraverso questa registrazione a capire un po' meglio come si è arrivati 10 anni fa alla vittoria del referendum. Ciao Renato. Ciao a tutti. Ciao Renato. Ciao. Intanto dici un po' qual è il tuo ruolo di militanza, insomma, all'interno di questa vertenza. Allora, innanzitutto io sono partito da lottare sul mio territorio contro le devastazioni ambientali e per la difesa dell'acqua dell'Abruzzo, ovviamente. Sì. E abbiamo ottenuto dei risultati pregevoli sotto molti aspetti, ma ci eravamo resi conto che se non avessimo fatto un network nazionale bastava una legge qualsiasi per fregarci. E quindi insieme a altri movimenti che nel frattempo erano nati, soprattutto in Toscana, in Campania, in Umbria, eccetera, abbiamo cominciato a pensare di metterci insieme. E visto che non esisteva una legge quadro sull'acqua in Italia, abbiamo cominciato a pensare che fosse una cosa importante crearne una. Quando poi ci siamo riuniti nel 2006 al Cordiale, che abbiamo fatto la nostra prima assemblea tradizionale, ci sono poste lì dentro due opzioni: o davamo la possibilità al governo futuro, che doveva essere quello di Prodi, di presentare una legge e di cambiare le cose, oppure quella di presentare noi una proposta di legge. E vinse questa opinione, l'opinione che appunto il movimento deve mantenere sempre la propria autonomia di movimento e concettuale, per cui attraverso 10 incontri che abbiamo fatto in tutta Italia, nelle varie regioni italiane, abbiamo messo su delle idee fondamentali per una legge quadro sull'acqua, che poi abbiamo presentato attraverso una legge di iniziativa popolare per la quale necessitavano solo 50.000 firme, e abbiamo raccolto 400.000. Il metodo è stato fondamentale, importantissimo, perché aver creato un'idea quadro dei concetti fondamentali dell'acqua, non solo per contestazione e come proposta, ma ergendoci noi direttamente come elemento costituzionale, è stata una cosa che ci ha caratterizzato fortemente e molto, molto, molto fortemente. E quindi è stata una cosa veramente molto, molto importante. Sempre nel 2006 abbiamo deciso di collegarci al movimento, diciamo, che si stava generando a livello mondiale, perché noi, a dire il vero, siamo stati aiutati anche molto dal fatto che in Bolivia qualche anno prima c'era stata la rivolta dell'acqua, la guerra dell'acqua, dove i indigeni erano riusciti a battere una multinazionale molto importante, e quindi cioè, diciamo, ci avevano dato il via là, diciamo, la possibilità di seguire, no? Per il quale noi siamo nati. Quindi siamo nati sulla base dell'autonomia, dal quadro politico e da un forte collegamento e sviluppo a livello globale. No, cioè penso che queste siano state le due cose molto fondamentali, insieme alla caratteristica di essere senso che, nel senso che partevamo comunque da lotte generali, cioè l'idea non è venuta da qualche centro al di fuori di lotte, ma è venuta all'interno delle lotte, no? Dei territori, e quindi anche nel tempo, anche dopo 10 anni appunto dal riscontro territoriale, se è vero che ovviamente abbiamo meno posto del passato, come tutti d'altronde, diciamo così, abbiamo mantenuto una struttura abbastanza indipendente che agisce nel sociale. Ok. Perfetto, e invece diciamo, venendo un po' ad oggi, sono passati 10 anni dal referendum, insomma, dei famosi 4 sì sulla privatizzazione dell'acqua, e quindi il referendum che si oppose fortemente alle privatizzazioni dell'acqua, a 10 anni da questa votazione, come stiamo messi? Oddio, siamo messi, cioè, oddio, non molto bene, nel senso che la nostra proposta di legge fu presa in mano da Bertinotti, che era presidente della Camera, e è stato messo sotto il tavolo, per cui non fu discussa in quel momento in cui avevamo forse anche più forza politica per portarlo avanti, questa stessa legge un po' cambiata, proposta di legge un po' cambiata, è stata riproposta dal Movimento 5 Stelle nel Parlamento attuale, però sono 3 anni che questa proposta è bloccata in Commissione Ambiente, per cui dal punto di vista del rispetto del mandato referendario, in buona sostanza non abbiamo nulla in mano, anche se possiamo notare che non riescono nemmeno a fare una legge, nel senso che hanno paura di intervenire, di fare una legge di questo, perché sanno benissimo, cioè, che c'è comunque una reazione, ci sarebbe una reazione popolare che non, magari non sarà per quella contro Berlusconi, ma abbastanza forte. Quindi, insomma, se da un lato non ripubblicizzano, dall'altro nemmeno si spingono, però che cosa fanno? Dato il contendere non è solo in Parlamento, ma nella politica reale, perché attraverso il PNRR lo stesso Draghi, che 5 mesi dopo il risultato referendario inviò insieme a Fisce una lettera al governo italiano dicendo che bisognava privatizzare l'acqua, non dobbiamo dimenticarlo, questo signore insieme agli altri amici loro suoi oggi cosa dice nel PNR? Dice che effettivamente bisogna mettere l'acqua, ma dice che in realtà i finanziamenti che sarebbero dati solo a quei comuni e a quelle realtà territoriali che si apprestino a sostenere una gestione industriale dell'acqua. Quando loro parlano di gestione industriale dell'acqua, in parole povere, significa fare andare i privati, perché loro ritengono che i privati hanno i mezzi e hanno le capacità per rendere efficiente la gestione. E quindi chiaramente oggi sì, ricordiamo il referendum, ma allo stesso tempo lo ricordiamo lottando contro quello che sta avvenendo in questo momento. Perfetto, perfetto, grazie mille Renato. Grazie Renato, veramente teniamoci in contatto e sicuramente, ecco, infatti... posso dire un'ultima cosa? Certo. Insieme al ricordo e alla lotta attuale, noi lanciamo anche con oggi, quando le 18, una webinar internazionale in cui inviteremo le realtà che hanno già ripubblicizzato l'acqua in Europa e nel mondo, per dimostrare che potrebbe fare anche in Italia, che non c'è stata nel fatto. Lo dobbiamo fare, dobbiamo mantenere questa idea globale, perché qualche mese fa è stata accettata l'idea della speculazione dell'acqua in bocca, cioè il costo dell'acqua, e quindi dobbiamo dotarci di una struttura internazionale più forte che riesca a resistere questa impatto al bene dell'acqua. Perfetto, perfetto. Sì, infatti adesso sicuramente quando rientreremo in onda, perché questo qui ricordiamo è un intervento che abbiamo registrato un po' prima, visto che più tardi insomma sarei impegnato alle 18 con questa questa iniziativa, e ricordiamo insomma di collegarsi. Ti ringraziamo di nuovo e sicuramente sì, adesso rientriamo in diretta e continueremo un po' soprattutto a parlare dell'entrata in borsa dell'acqua e di questo aspetto qui. Grazie mille e dalle porte, se buonanotte. Se potete inviarmi il link magari lo mandi in perfetto, grazie mille. Ok, benissimo, eccoci rientrati in voce. Entriamo in voce e ringraziamo Renato grande veramente, grande, perché insomma era proprio testimonianza direi fondamentale, sempre disponibilissimo, grazie a Renato. No, poi soprattutto ci serviva proprio di entrare un po' nel piano di da dove siamo partiti, no? Di fare un po' luce, insomma. 10 anni fa, e invece molto interessante anche come lui l'ultima cosa che dice, quelle su cui appunto si stava tenendo questo incontro web, la quotazione in borsa dell'acqua e tutto quanto quello che riguarda appunto, come vedremo, l'acqua, ma non solo, tanti altri aspetti. È veramente una cosa inquietante. Ricordiamo che a fine 2020 insomma è stata quotata appunto l'acqua come se si potesse vendere un bene, che a me questa cosa già fa ridere di suo, perché insomma l'acqua è libera per definizione, insomma il ciclo dell'acqua è una delle prime cose che ti insegnano quando vai a scuola, che l'acqua è libera, si ricicla continuamente, non puoi bloccarla, non puoi fermarla, è assurdo insomma, ma non è neanche una novità, insomma ci sono un sacco di popoli soprattutto a sud, in Sud America, nel sud del mondo, che vengono addirittura privati dell'acqua che gli necessita per vivere, cioè per proprio base, per bere, per annaffiare, per lavarsi eccetera, cose che magari da un corso d'acqua che hanno sfruttato per centinaia di anni, all'improvviso arriva il capitalismo e ti dice no, io qua devo deviare perché devo andare a annaffiare l'avocado. Che poi tra l'altro la cosa abbastanza che poi se uno va a vedere nel dettaglio la cosa è disarmante, cioè in realtà l'acqua non è stata semplicemente venduta, o meglio non è che da oggi è semplicemente vendibile, diciamo che appunto no, come dicevi, hanno provato a dargli un prezzo, no esatto, sì però esatto, ma appunto come dicevi tu a fine del 2020 sono stati lanciati dei futures. I futures praticamente sono un tipo di derivato, dei particolari tipi derivati, tu praticamente compri dell'acqua oggi ad un prezzo prefissato nel tempo, cioè tu da qui a 5 anni avrai l'acqua sempre allo stesso prezzo, sia che il prezzo dell'acqua salga sia che scenda, diciamo che sono delle scommesse che vengono fatte dai grandi asset finanziari, quindi come succede al grano, al petrolio, insomma all'oro. Ricordiamo che noi sull'acqua insomma abbiamo un punto che è bello insomma, come dire, fermo, possiamo dire che è un punto abbastanza fermo insomma. Esatto, le cose esatto. Insomma noi ci troviamo dalla parte di quelli che dicono no ai distacchi dell'acqua qua in Italia, insomma, perché qua stiamo ancora a parlare che c'è gente che prova veramente a staccare utenze a chi non c'è esordi. Infatti cioè, invece questi grandi asset finanziari che ti dicono, ma noi lo facciamo perché vogliamo bene la terra, perché così facendo, dando un valore economico all'acqua, noi possiamo quantificare anche il consumo e quindi ridurre lo spreco e quindi garantire alle aziende dei grandi quantitativi di acqua che però sono finiti, cioè nel senso possiamo sapere quant'è, quanta ne sarà e dove starà, quindi ti dicono pure ti stiamo a fare pure un favore. Vi ricordate quando un anno fa ci dicevano che ci dovevamo lavare le mani ogni volta che toccavamo qualcosa? Ebbene sì, quanto spreco. Vabbè, comunque, visto che da qua non è che sono 2-3 giorni che si trasmette Liberi sulle frequenze di 87.9, come ci ricordava Silvio Radio Torre, lui il primo contributo, la pubblicità che hanno passato, lo spot che hanno passato era di 15 anni fa se non di più, quindi insomma dal 77 senza padrini e senza padroni, e sul pezzo soprattutto, perché tutto quanto quello che diciamo in radio proponiamo appunto sulle frequenze libere degli 87.9, potete trovarlo in podcast sul sito. Tant'è che noi abbiamo trovato un podcast nostro, cioè noi non sapevamo che potesse esistere prima di noi qualcosa, cioè è una cosa strana, vabbè, nel senso i più appassionati riusciranno a capire, per i meno appassionati spieghiamo, nel senso questa è quasi la nostra trasmissione ma è prima che la facevamo noi, è tipo un... qualcosa di troppo, no? Vabbè, cioè, siamo tipo noi 10 anni fa. Un Back to the Future sembra quasi. Boh, sembra quasi che qualcuno ci abbia anticipato e come al solito non ci siamo inventati esatto, niente. È come se qualcuno ci avesse anticipato. Incredibile, cioè secondo siamo me. Non siamo inventati niente. Da un momento all'altro uscirà fuori la macchina del tempo. Va bene, comunque ci andiamo a sentire. Attenzione, quello che ascolterete per i prossimi 60 minuti potrebbe urtare la vostra sensibilità. Se siete soggetti primi di umorismo, sarcasmo e autoironia, vi consigliamo di cambiare frequenza o di ascoltarci in presenza di qualcuno estremamente paziente da spiegarvi che vi stiamo prendendo per il culo. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rapper every time. We come and rapper, we come and rapper. We come and rapper every time. Hey, hey, hey, hey. We come and un saluto a tutte e a tutti dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Siamo al 12 giugno del 2011, oggi è domenica, è la 120esima puntata di Avremo ragione. Un saluto alla redazione artistica del programma, un saluto a Simone, a Giacca e allo zio. Oggi parleremo di referendum che è in corso in queste ore e ne parleremo ovviamente con Serena. Sì, eccoci, un saluto a tutte e a tutti. Mi si sente? Sì, ti si sente e un saluto anche a Ivano. Buongiorno. Ciao Ivano. Comunque non è che sono d'accordo, Ovviamente, ma infatti iniziato. No, non facciamo polemiche. No, che polemica? No. Tu volevi fare polemica? No, nessuna polemica, non mi mettete parole in bocca che non ho detto. Allora, oggi parleremo quindi in particolare del quesito dell'acqua pubblica, dello smantellamento. Non sono d'accordo neanche su sta cosa qua. Perché e non avete visto che è finita mo adesso l'epidemia di SARS, no? Quella che fortunatamente a noi non è che sì. sta. Via viaria pure, no? Tipo di aria, insomma, di aria, esatto. Sì, mettete che un giorno arriva, che ne so, qualche virus, qualche batterio che proprio, non lo so, riesce a tagliare le gambe all'Occidente, che magari non riusciamo più ad avere le terapie intensive, a trovare le cure, ci devono chiudere tutti. Ma non credo, perché ti sei impressionato, magari mi sono impressionato questo fatto. Sei un po' suggestionabile, vero? Non ci sono, la pandemia è una cosa da film catastrofista, su. E parleremo quindi anche di scuola pubblica e del progressivo smantellamento anche della sanità pubblica. Sì, della sanità pubblica a vantaggio poi, no, delle strutture private, lo vedremo anche con una serie di ospiti che interverranno e che daranno il loro contributo. E invece va dal punto di vista politico, come vanno le cose? Niente, abbiamo sempre Berlusconi al governo, speriamo che con questo referendum se ne vada. Io spero insomma di non ritrovarmi come Presidente del Consiglio un giorno il sindaco di Firenze, come si chiama? Renzi. Ma chi, Renzi? Renzi, ma no, non succederà mai. Berlusconi potrebbe succedere qualunque cosa. Allora Trump presidente degli Stati Uniti, cioè, allora diciamo che ne so, Putin presidente, che vuol dire? Se uno deve mettere le cose in un minimo reali, ti pare che Trump diventa presidente degli Stati Uniti? Ma no, infatti non potrà mai succedere. Mandiamo un pezzo e ci sentiamo dopo. Che spettacolo, applausoni a insomma a Radio Onda Rossa che recupera contributi incredibile di 10 anni fa storici. Poi vedi, questa archeologia radiofonica. Ci avevano un buon gusto, tant'è che passavano gli scasso che dicevano te la do io la 24. Insomma, noi siamo un bel po' di anni che anche con gli scasso diciamo sta roba qua. Comunque, grazie ancora insomma alla redazione che crea questi contributi incredibili. E andiamo un po' avanti a parlare. Torniamo seri un attimo. Sì, torniamo seri, ma io direi che neanche troppo. E diamo il benvenuto a Simona, una compagna che dovrebbe essere qui insieme a noi. Ci stai, Simona? Ci sono, senti? Vi sento. Dai, perfetto, ciao, perfetto. Bene, ciao Simona. Applausori, applausori. Ciao. Insomma, Simona, ieri in manifestazione abbiamo chiesto se ci dava una mano un pochino a snocciolare, diciamo, le tematiche. Eccetto di no. Invece hai detto di... Però poi mi avete chiamato lo stesso e quindi esatto, sono costretta. Incredibili, guarda, siamo proprio delle piattole. È vero, sì, siamo proprio delle persone brutte, come dicevamo prima. E quindi, scherzi a parte, abbiamo chiesto a Simona se ci dava un po' una mano invece a parlare di, dei problemi di oggi, soprattutto quelli che si prospettano per le lotte future per quanto riguarda la privatizzazione di beni che dovrebbero restare invece comuni. Sì, allora io ho sentito anche l'intervento di Renato e diciamo che intanto mi preme dire che diciamo non è che stiamo allo stesso punto di 10 anni fa, nel senso che se quel referendum non fosse stato vinto adesso avremmo già le privatizzazioni completate in tutti i territori, perché il decreto che abbiamo abrogato votando e dava anche delle tempistiche insomma abbastanza stringenti. E quello che ha detto Renato è molto importante anche per adesso. Il forum è nato da vertenze territoriali e questa vittoria culturale enorme e politica ha diciamo un po' sottratto la parola privatizzazione tra le parole positive, e tant'è che adesso appunto nessuno si azzarda a fare una legge che direttamente privatizzi come è stato il decreto, e questa è una vittoria nostra e ce la teniamo. E quindi quello che succede adesso è che si fanno appunto delle riforme, delle leggine, ci si arriva un po' aggirando oppure non si sceglie di andare verso il pubblico, in modo che nelle pieghe della politica dormiente il mercato faccia i suoi passettini, le sue aggregazioni, andando, procedendo con le privatizzazioni, con un percorso però un po' a ostacoli, e questi ostacoli li abbiamo messi noi. Questa cosa la sottolineo tanto perché magari in questo periodo ci sembra di vincere poco, di non essere, certo, diciamo che le battaglie non ci sembrano magari insormontabili, ma 10 anni fa anche questa era assolutamente insormontabile, soprattutto vista un po' l'armata Branca Leone rappresentata dal nostro movimento che si è lanciato in un referendum, una roba complicatissima. E, però diciamo che questi ostacoli al capitale glieli abbiamo messi noi e sono ancora in campo. Questo che vuol dire? Che se adesso nelle riforme strutturali del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa c'è un'indicazione, diciamo una strada che cerca di agevolare le privatizzazioni, e poi queste privatizzazioni dovranno avvenire nei territori, e nei territori ci sarà l'opposizione come c'è sempre stata, perché in questi 10 anni sicuramente non abbiamo la potenza che ci avevamo 10 anni fa, ma vi assicuro che io che ho seguito un po' anche a livello nazionale le vertenze locali, non si sono mai smessi di attivare i comitati locali, hanno dato battaglia comune per comune con una tenacia e una cazzimma veramente incredibile, e questo ci fa sperare, ci dà fiducia. Molti di loro erano presenti ieri e anche in questo insomma serve una bella determinazione per spostarsi adesso con tutte le difficoltà del caso. E quindi sicuramente nei territori laddove laddove Draghi, cioè tendenzialmente in Sud Italia, indica un po' la prateria sconfinata per i privatizzatori, sicuramente ci sarà battaglia, e diciamo sta a noi rendere queste battaglie territoriali di valenza politica insomma anche a livello nazionale. Questo è un punto, poi se volete vado avanti, se no fermatevi. Certo, assolutamente, andiamo un pochino avanti, perché parlare un po' anche di quello che sta succedendo, anche buttando un occhio sul PNRR, secondo me è molto interessante, ed è una cosa dalla quale dobbiamo partire per diciamo sfruttare un pochino questa scossa che ci siamo dati con appunto 10 anni del referendum, no? Certo, beh, diciamo che appunto io cercando di vedere anche in positivo quali sono un po' gli strumenti nuovi o che possono essere efficaci adesso, che magari 10 anni fa erano un po' più sotto traccia, abbiamo due temi fortissimi adesso che dobbiamo essere capaci ad utilizzare. Uno è tutto ciò che ci ha mostrato la pandemia, e quindi anche nel costruire la mobilitazione di ieri noi ci siamo costantemente confrontati anche con i movimenti che si battono per la sanità pubblica, perché su tanti discorsi, se si sostituisce la parola sanità alla parola acqua, assolutamente, ma non solo, anche se la associamo alla scuola pubblica, no? Certo. Cioè, nel senso, quindi, i problemi purtroppo, come vedremo anche più tardi, sono gli stessi, e i problemi sono, per farla proprio, per dire terra, il modo in cui provano a rendere privato quello che dovrebbe essere pubblico, no? Piano piano, attraverso piccoli smembramenti, un po' qua, un po' là, ci provano. E in questo deve stare un po' la nostra capacità di non sommare le lotte, ma farle insieme. E è evidente che se si fa un passo su uno di questi temi, si fa un passo sulla scuola, si fa un passo contro la privatizzazione della sanità o dell'acqua, è evidente che è un passo in avanti per tutti, anche per le altre battaglie che usano le stesse parole d'ordine. L'altro elemento, diciamo, sotto gli occhi di tutti, o forse sul quale c'è più attenzione, tant'è che gli abbiamo dedicato anche il nome di un ministero, è la questione ecologica, la questione ambientale, molto mainstream adesso, probabilmente più di 10 anni fa, sicuramente più di quanto sia mainstream la gestione dell'acqua o dei servizi pubblici, però fortemente connessa con essa. E la finanziarizzazione dell'acqua, di cui parlavate prima, quindi la quotazione in borsa e dei feature dell'acqua, è esattamente questo, è una scommessa sulla siccità. Cioè, io acquisto l'acqua adesso a un prezzo, io pagherò quel prezzo anche tra 10 anni, io pagherò quel prezzo, no, tra 10 anni no, 3 anni, mi sembra che sono 3 anni le scadenze, io pagherò quel prezzo, ma io la posso rivendere a un prezzo più alto, ed è proprio lì la scommessa, ed è proprio lì il profitto. Se ci sarà siccità in California tra 3 anni, dove io ho comprato il mio future sull'acqua, io avrò fatto l'affare, ed è una scommessa vinta in partenza. Quindi sottolineare quanto sia folle, in un momento in cui l'acqua diventa una risorsa sempre più scarsa per le questioni ambientali e per la nostra gestione scellerata, sottolineare quanto sia folle mettere un bene sempre più scarso nelle mani dei privati o nelle mani della finanza, ecco, questo io confido che sia una molla che faccia un po' drizzare le orecchie a tutti quanti, anche a chi, e parlo da romana e nella città di Roma, magari non sente questo problema in modo così pressante, perché a Roma spremendo come spugne tutte le risorse idriche della regione, perché questo si fa per far arrivare l'acqua nei rubinetti dei romani, noi non ci accorgiamo granché che c'è un problema di questo, in questa direzione. Infatti, ce ne accorgeremo tra poco, forse, quando sarà, se non riusciremo a fermarlo, ma noi vogliamo fermarlo, e quando sarà completato il secondo potabilizzatore del Tevere, che potabilizzerà una considerevole quantità di acqua, e quindi questa acqua miscelata e trattata chimicamente del Tevere arriverà nei nostri rubinetti, forse a quel punto ci accorgeremo che, ma tutto sommato, il problema della siccità e della questione idrica ce l'abbiamo anche noi romani, e che quindi la vertenza sulla gestione dell'acqua è una vertenza che ci riguarda davvero tutte e tutti molto, molto da vicino. Ma infatti questa cosa, guarda, scusami, ma sì, hai toccato proprio una corda molto, molto dolente per me, perché io sono abruzzese, insomma, in Abruzzo, al contrario di quello che si potrebbe pensare, d'estate l'acqua è razionata. Cioè, io adesso succede un po' in tutta quanta Italia, esatto, perché appunto la Simona diceva che a Roma l'acqua c'è sempre, e quindi questa cosa è sentita relativamente ogni poco. Tanto d'estate svuotiamo i vari laghi qua e là, esatto, però l'acqua dei rubinetti esce sempre. Invece in Abruzzo abbiamo il Gran Sasso, abbiamo le riserve idriche, abbiamo non si sa cosa, d'estate l'acqua c'è 3-4 ore al giorno. Stiamo parlando che se non c'hai il serbatoio con l'autoclave, non hai l'acqua. Ecco. Ma anche anche in tantissimi comuni del Lazio è così, anche esatto. In tantissimi comuni gestiti da ACEA, perché non si fa a Roma? Vabbè, intanto Roma, essendo una città ad alta densità abitativa, è un po' più facile la gestione e anche far arrivare l'acqua nelle case, perché tu nello spazio, in un piccolo spazio, c'hai un sacco di utenze e quindi è anche più facile servirle rispetto ad altre situazioni. Però perché non si fa, cioè ACEA è quotata in borsa, e appunto qua torniamo alla questione della borsa, ACEA è quotata in borsa, e far mancare l'acqua nella città in cui l'azienda è nata, opera, dove c'ha il suo core business, ovviamente sarebbe una pessima figura in borsa. E quindi perché si continua a mantenere, a proteggere in qualche modo le utenze romane, sacrificando le risorse idriche del Lazio e un pochino anche dell'Abruzzo e i comuni intorno a Roma, sempre per una questione di, appunto, di mercato. E questo, diciamo, su questo aspetto un po' si sente dal punto di vista politico il fatto che i romani e le romane non sentano questo problema così, così pressante, ed è per quello che, appunto, sulla questione del potabilizzatore del Tevere, sulla questione delle perdite idriche che a Roma sono ancora altissime, e noi esatto, stiamo questi facendo sono uno dei problemi più grandi, le perdite, no? Certo, sì, e che appunto ACEA ha mostrato di non voler affrontare. Io adesso, il webinar di cui parlava prima Renato è in corso adesso, io stavo sentendo adesso l'intervento di Anne Lestrat, che è stata vice sindaca di Parigi ormai 10 anni fa ed è stata l'artefice della ripubblicizzazione dell'acqua a Parigi. Quello che hanno fatto appena hanno preso l'acqua in mano pubblica il comune è stato sventrare le strade di tutta Parigi per cambiare completamente i tubi dell'acqua che passano sotto una città così grande, sono una roba enorme. Ovviamente un'azienda privata come ACEA, che guarda all'assemblea dei soci di anno in anno e quindi ai profitti, agli utili che si dovranno distribuire di anno in anno, non lo fa, non è proprio nelle sue corde fare un investimento così massiccio. Quello che fa è mettere delle pezze qua e là che lasciano il tempo che trovano, questo ce l'hanno spiegato i tecnici di ACEA, non ce lo inventiamo noi, e cercare fonti alternative, perché sanno benissimo che a un certo punto l'acqua rischia di non arrivare nei rubinetti dei romani. Tra queste fonti alternative, oltre a spremere sempre di più l'acqua che preleviamo dall'ambiente, c'è il Tevere e il mare, quindi desalinizzatore da un lato e acqua trattata del Tevere dall'altro, che di per sé potrebbe andare anche bene in altre situazioni. Ci sono tante altre città che bevono in questo modo, ma farlo mentre il 40% dell'acqua di sorgente si perde nei sotterranei delle strade di Roma è veramente una roba che grida vendetta, e su questo noi vogliamo in qualche modo fomentare un po' il veleno dei romani e delle romane, perché veramente c'è da avvelenarsi su un paradosso del genere. Assolutamente. Tutti i sensi, direi, un avvelenamento totale dell'animo e del corpo. Va bene, sì. Vuoi aggiungere qualcos'altro, Simona? Perché magari stiamo perdendo qua e là? Diciamo che prossimi, dopo la fatica di ieri e di oggi, prossimi sì, appuntamenti. Ricordiamo qualche appuntamento, che è sempre la cosa migliore. Prossimi appuntamenti a brevissimo non ce ne sono, tranne che appunto sulla pagina Facebook del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua si troveranno gli interventi del webinar che sta andando avanti adesso, oltre a una serie di video e foto della bella manifestazione di ieri, oltre a tutti gli aggiornamenti, perché appunto le vertenze vanno avanti. Qua nel Lazio c'è una vertenza a Viterbo in corso che ci riguarda ovviamente anche a noi, e man mano che escono fuori in modo più dettagliato i progetti legati al piano nazionale di resilienza e ripresa, ovviamente noi staremo sul pezzo e proporremo iniziative. L'ultima cosa che voglio dire, che è stata accennata prima però è ancora molto viva, è la questione dei distacchi idrici. Su questo noi non abbiamo mai smesso di fare campagna, anche questa è una roba che grida vendetta e della quale però in pochi si accorgono, fino a che magari non gli capita, e è una cosa della quale fanno le spese quotidianamente soprattutto chi abita nelle occupazioni abitative, perché per l'articolo 5 del decreto Lupi non si ha diritto neanche all'acqua, e quindi su questo è un aspetto sul quale stiamo lavorando anche insieme ai movimenti per il diritto all'abitare. E è stata attivata anche una petizione durante la pandemia per

nero su bianco, nero è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. Eccoci qua, dunque, rientriamo, io te l'avevo detto, direttamente dagli studi di Radio Onda Rossa, via dei Volsci. Quanto spacca sto traccione dei 99 posti? Pensavo proprio a quello, effettivamente un traccione, una bomba atomica, come sempre, grandi. Una certezza, come dire. E proseguiamo oggi qui a Io te l'avevo detto, beni comuni e privatizzazioni, insomma, abbiamo fatto, insomma, siamo partiti dalla manifestazione di ieri, abbiamo sentito Renato, Simona, tutti i compagni, insomma, che ci stanno facendo un po' il quadro della situazione per aiutarci, insomma, a comprendere quello che sta succedendo. E dunque vediamo cosa sta, insomma, ok, esatto, il percorso e arriviamo. Eccoci, scusa, ero fuori, sono rientrato. Qui sei fuori da tempo. Da tempo in memoria, c'hai ragione, esatto. Comunque dicevamo che oggi, appunto, come dicevamo prima, toccheremo vari ambiti dei beni comuni e quindi delle privatizzazioni che incombono sulla pubblicità di questi beni, diciamo. E quindi adesso sentiremo una compagna della redazione di ROR in merito, appunto, a questi discorsi che stavamo ben facendo. Sì, infatti diamo il benvenuto per la prima volta in anteprima con noi. Esatto. Io te l'avevo detto, sì, è vero, a Elena. Ciao Elena. La redazione della radio. Ciao Elena. Ciao. Sentite, perché sì, io mi sento così così, devo dire la verità, però ci provo. Ci senti così così, vediamo un po' se riesci così, a... Così mi senti meglio, forse? Collegamento tra Roma Est e Roma Est è difficile. Difficilissimo, è sempre così complicato. Ci senti meglio adesso? Sì, un po' meglio. Un po' meglio, adesso alziamo un pochino tutto quanto, smarmelliamo, adesso forse vi senti meglio. Sì. Sì, vi sento meglio effettivamente. Ok, okay. Piano piano i potenti mezzi della radio ci assistono. Esatto. Allora, abbiamo visto insieme, insomma, a Simona, prima della pausa musicale, quali sono le problematiche e le direzioni che sta prendendo, insomma, che prova a prendere il settore privato all'interno del pubblico. Il capitale, dai, diciamo le cose come stanno. Il capitale dentro il pubblico è entrato a gamba tesa, sta entrando a gamba tesa, ormai sono tanti anni che lo diciamo a squarciagola. Invece a scuola cosa succede? Beh, anche a scuola è una lunga storia, purtroppo, nel senso che forse ci sono problematiche simili a quelle che avete affrontato e altre molto diverse e che sono forse anche quelle più preoccupanti, quelle nel senso che parliamo, insomma, della inclusione delle scuole private nel sistema di istruzione. Nel senso che sì, infatti se ti va anche in brevissimo di dirci quali sono stati i passaggi che hanno portato a questa roba. Diciamo che c'è il passaggio, certo, si parla di una legge del 2000, era ministro Berlinguer, il quale, oltre a essere il padre della madre di tutti le disgrazie, cioè la legge sull'autonomia scolastica, fu anche il promotore di una legge, norme per la parità scolastica, si chiamava sempre appunto del 2000, che sostanzialmente ha parificato l'istruzione privata rispetto a quella pubblica. Mi sentite? Sì, come no, ti sentiamo bene. Ha parificato l'istruzione privata rispetto a quella pubblica, chiaramente non nel senso che le scuole private per essere parificate devono essere riconosciute, tanto per queste ora si chiamano scuole parificate, ma per essere riconosciute di fatto gli è stato chiesto molto poco, nel senso che se voi andate a leggere questa legge è abbastanza inquietante, perché insomma sapete, in genere le leggi sono tutte molto lunghe e complicate. Sì, che rimandano anche ad altre cose già scritte prima. Invece questa è una legge semplice, corta. Perché di fatto non gli viene chiesto quasi niente a queste scuole per essere riconosciute, gli viene chiesto di avere un edificio e poco più, insomma. Ah, ecco, cioè quindi basta avere quattro mura per essere paritari. Questo ha permesso, chiaramente, era una richiesta che le scuole private facevano da molto tempo, bisogna anche chiarire che private in Italia significa cattoliche per quanto riguarda le scuole, nel senso che credo circa il 90% delle scuole parificate sono scuole confessionali legate alla Chiesa Cattolica in modi diversi, di ordini o non di ordini, ma comunque cattoliche. E ovviamente si chiedeva da tempo questa cosa, che ha permesso loro, come dire, permetteva loro di avere da una parte più studenti, perché questi poi non devono, se tu vai in una scuola non parificata a fine anno poi devi fare l'esame per farti riconoscere l'anno, se tu invece vai in una scuola parificata no. Certo, e addirittura fai anche l'esame di Stato dentro quella scuola, fai tutto il percorso dentro a quella scuola, quindi avere più studenti, operazione che comunque gli è riuscita fino a un certo punto nonostante questo grande aiuto da parte dello Stato, perché poi alla fine, come dire, la qualità di queste scuole è molto bassa in Italia e il costo è molto alto in genere. L'altra cosa che ovviamente la legge sulla parità scolastica ha portato alle scuole private, che al 90% sono cattoliche, sono ovviamente finanziamenti che vengono rinnovati anno dopo anno, e che Matteo Renzi nel 2014 ha raddoppiato in un colpo solo, stabilizzandoli, cioè mentre prima ogni anno se ne discuteva, adesso con un intervento che fece Renzi sostanzialmente sono stati ordinati in un sistema e sono circa, se non sbaglio, sui 500 milioni di euro l'anno. E questo appunto, poi le leggi sulla parità scolastica hanno portato tante altre cose, ha portato che per esempio chi aveva fatto le sue carriere scolastiche dentro scuole private ha avuto lo stesso punteggio e è potuto passare nella scuola di Stato, tenendo conto chiaramente, mentre nella scuola di Stato si entra con un concorso a seconda degli anni o con una scuola di specializzazione, in genere con un lungo precariato, nelle scuole private si entra come decide la scuola privata, perché si tratta appunto di un privato, può decidere di assumerti sulle basi che vuole, anche per esempio perché la pensi come lui o perché ti conosce. Certo. E questo appunto è un effetto, è quello che è il rapporto privato pubblico, no? E adesso tutto quello che viene fatto appunto riguarda il sistema di educazione pubblico, che non significa più statale, perché nell'aggettivo pubblico avete presente questa cosa delle guerre umanitarie, no? Uguale, lo stesso come dire, lo stesso simoro e la stessa ambiguità lessicale si è creata nella scuola, cioè si usa l'aggettivo pubblico per indicare un sistema di istruzione che è in parte statale e in parte privato. È pubblico nel senso, certo, che certo, ma come tanti altri settori, di nuovo torniamo a fare questa assonanza. Hai veramente ragione, infatti sarebbe stata la cosa che ti stavo per chiedere, proprio questo. E questo diciamo che è una delle cose che si può dire. L'altra cosa chiaramente che si può dire è l'ingresso invece proprio dei privati dentro le scuole di Stato. Esatto, tanto sì, per, sì, è proprio questo. Dico infatti, di Stato, certo, per esatto, non dire pubbliche, per non rimettere in circolo le stesse ambiguità. E cioè, e anche qui, innanzitutto, come in tanti settori, si parla di esternalizzazione dei servizi. Le insegnanti, il personale di segreteria è rimasto tutto, diciamo, pubblico, tutto di Stato, ma per quanto riguarda per esempio chi pulisce le scuole, in tante scuole, come sono anni e anni che non si assumono più collaboratori e collaboratrici, hanno cominciato a essere incaricate cooperative. Certo, certo. Cooperative, che quindi tu hai personale che fa le pulizie a scuola, che prende magari 5, 6, 7 euro l'ora. Con un contratto precario. Con un contratto precario, un contratto di quello appunto da cooperative, che lavora fianco a fianco con quelli che sono rimasti, che invece hanno, che non è che quello di siano stipendi stellari, quelli no, certo, certo. Però comunque hanno un altro tipo di inquadramento, e con tutto il problema, insomma, che sappiamo che porta quel tipo di lavoro. Oltretutto, come dire, è anche un taglio comunque sulla scuola, perché il collaboratore, la collaboratrice, cioè quelli un tempo chiamavamo i bidelli, non facevano e non fanno solo le pulizie, ma sono presenti nella scuola, stanno in portineria, stanno al piano e quindi qualunque cosa di cui ha bisogno in classe ci sono, eccetera eccetera. Se invece tu prendi delle ditte private che mandano delle persone a pulire la scuola 3 ore al giorno, chiaramente tutto questo scompare. Certo, oltre ovvio. Ai diritti di queste persone. Ovvio, ovviamente. Un altro invece grande capitolo del, diciamo che l'arrivo dei privati nella scuola pubblica in questo momento è molto grande, cioè c'è un attacco su tanti fronti. Da una parte del terzo settore, quindi quello di voler sostituire sempre personale di cooperative, associazioni, eccetera, agli insegnanti e alle insegnanti, agli educatori e alle educatrici. E a proposito di educatori e educatrici, c'è un'altra esternalizzazione, che è tutto quel servizio che alla scuola primaria vengono chiamati AEC, alle scuole medie e superiori vengono chiamati assistenti specialistici. Cioè si tratta di quelle figure che non sono gli insegnanti e le insegnanti di sostegno, ma sono educatori e educatrici che lavorano per l'integrazione dei ragazzi e delle ragazze con handicap di vario tipo. Eccomi qua, OEPA, siamo operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione. Sì. In questo caso, quindi tu lo sai meglio di me, insomma si tratta di persone che lavorano per cooperative con una paga oraria sempre molto bassa, che quindi non hanno come dico stesso datore di lavoro che abbiamo noi, che ci lavoriamo fianco a fianco, perché non sono dipendenti del MIUR, sono dipendenti di una cooperativa i cui soldi arrivano dagli enti locali, non direttamente dal ministero, quindi con i tempi mai sicuri degli enti locali, quindi vengono pagati in genere a scaglioni, alcuni anni il bando prevede più soldi, altri meno, lavorano, non hanno una serie di diritti infiniti come spesso insomma, succede per chi lavora per le cooperative. E anche qui c'è in atto una campagna insomma di lotta da parte almeno di una parte di questi lavoratori che chiede l'internalizzazione, cioè chiede di diventare dipendenti del ministero, perché del resto queste persone lavorano nelle scuole, lavorano a fianco a noi, ma di fatto non c'entrano niente con noi. E questa cosa è assurda, e oltretutto, oltre al fatto che è un modo per non garantire diritti a questi lavoratori e a queste lavoratrici, rende anche il servizio molto più inefficace. Perché faccio soltanto un esempio, queste persone per esempio non partecipano alle riunioni con gli insegnanti, quindi noi dove ci confrontiamo con queste persone non lo sappiamo, con questi lavoratori e queste lavoratrici. E questo è un altro settore ancora, non so se su questo volevi aggiungere qualcosa. No, purtroppo. Ma... cioè... perché no? Invece sì, secondo me invece è proprio questo il momento. No, guarda, a parte che Elena ha tracciato benissimo la situazione, e effettivamente non è molto complicata, cioè è questo il problema, è molto grave proprio perché è molto semplice. No, però lei si poneva la domanda di come parlare con appunto con i lavoratori e con le... No, nel senso non è che la pongo a lui perché... No, la pone a noi di... Giacomo come lavoratore in primis, ma anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. No, guarda, la pongo essenzialmente al ministero, perché queste persone per me andrebbero assunte come dipendenti. Esattamente. C'è bisogno di insegnanti, c'è bisogno di collaboratori e collaboratrici, c'è bisogno di educatori e educatrici, evidentemente, quindi non si vede perché debba essere un servizio che garantisce tra l'altro non il ministero ma l'ente locale, sì, ma non direttamente, ma facendo dei bandi a cui rispondono delle cooperative che a loro volta assumono le persone, insomma. Io intendevo più quello su cui riflettere, che magari poteva essere interessante, è come avvicinare invece appunto i lavoratori e le lavoratrici alle lotte. Mi ricordo che parlando di questo problema, probabilmente in assemblea addirittura ne parlavamo, uno dei problemi che viene diciamo dal concetto di cui stai parlando tu è proprio dipende dal fatto che la categoria degli operatori educativi o comunque del personale delle cooperative è estremamente poco conflittuale, cioè c'è davvero poca conflittualità nell'intero settore, perché è un settore relativamente niente nuovo, è un settore sempre in cambiamento. Ecco, fino all'altro ieri ci chiamavamo AEC, certo, certo, ma poi oggi ci chiamiamo EPA. Il fatto, cioè, che insomma, che te licenzia, che c'è una possibilità di licenziarti, è una cosa che già ti smembra. Esatto, di per poi sé, dipende, no? Dipende molto anche dalla cooperativa con cui lavori. Certo. Infatti, il più delle volte, come diceva giustamente Elena, si è soggetti a delle situazioni che davvero hanno poco a che fare con la serenità di chi dovrebbe lavorare negli ambienti della formazione e della, sì, appunto, e della, anzi, crescita. Se mi consenti, viene usato anche proprio il ricatto, no? Sì. Del classico di tutti i lavori di cura, o comunque lavori che hanno a che fare con le persone, perché quando tu fai questo, svolgi questo tipo di lavoro, come dire, nel momento in cui protesti, nel momento in cui ti fermi, eccetera eccetera, hai sempre la pesantezza di sottrarre, sì, il tuo tempo a quelle persone, no? Sì, sì, sì, sì. E ai ragazzi e le ragazze che vanno a scuola, per esempio. Certo. Questo è un ricatto che viene usato molto nel, e immagino anche nel vostro tipo di lavoro. Ma assolutamente, cioè il peso che si dà alla spinta emotiva di chi lavora è quindi il ricatto che si fa su questo è... Che c'è qualche problema? Ah, ecco, esatto. Il ricatto che si fa su questo è incredibile. Personalmente devo dire che io sono fortunato in questo, da questo punto di vista, perché lavoro in un ambiente abbastanza sereno, però ovviamente tra colleghi e colleghe sappiamo bene che insomma la situazione nelle altre cooperative è veramente dura. Vabbè, insomma, diciamo che non è neanche la novità questa, è stato qualche anno fa, insomma, su tutte quante le pagine di tutti quanti i news mondiali, penso, insomma, Roma Capitale, hanno fatto addirittura le serie TV. Ah, sullo scandalo delle cooperative a Roma, certo, assolutamente. Quindi vabbè, direi che stendiamo, grazie a Elena, su questo argomento stendiamo un velo. No, vorrei aggiungere un altro settore, proprio ve lo lancio lì, che sono invece grandi corporation che entrano nelle scuole, e questo è diventato molto invadente col Covid e con la questione DAD. Da questi microfoni, da microfoni della Gionda Rossa, ne abbiamo parlato tante volte, non solo dall'Ora di Buco, che è la trasmissione, insomma, che facciamo sulla scuola il martedì, ma anche in tanti momenti diversi. Certo. Perché, come quasi tutti quelli che ci ascoltano sapranno, Covid ha significato scuole chiuse e didattica a distanza ha significato piattaforme di proprietà di grandi nazionali, multinazionali, sostanzialmente nella scuola hanno quasi il monopolio, ovviamente, Google e Microsoft, all'inizio un po' Zoom, ma è stato fatto abbastanza fuori, e questa è una cosa molto grave. Sì, molto, sì, grave. Mi ricordo che quando ne parlavate in puntata, insomma, la cosa era abbastanza agghiacciante, insomma, si tratta di un censimento di praticamente di tutti quanti i ragazzi e le ragazze minorenni. Si tratta sostanzialmente di aver regalato a Google e ai suoi amici l'account di qualche milione di minorenni, e poi c'è tutto il problema dei dati, ovviamente, che vengono dati in pasto alle multinazionali, e poi c'è tutta la questione della banda, anche dal punto di vista economico c'è anche quello, no? C'è il fatto che lo certo. Stato, il Ministero, non si è occupato né della banda né delle piattaforme, quindi sono sempre gli stessi privati che stanno guadagnando un sacco di soldi e come dire, sia diretti che attraverso, per esempio, l'acquisizione di dati e metadati. No, soprattutto la cosa che secondo me va sottolineata è che non c'è stato minimamente un incentivo reale e fattibile su un'alternativa, no? Sì, non c'è stato assolutamente, non c'è nemmeno ora, nonostante nel PNRR ovviamente c'è una sezione dedicata alla scuola, tra una ventina di pagine, ci sono degli investimenti che sono, cito a braccio, mi sembra 32 miliardi, sul sistema di istruzione che va dal nido all'università, ma quasi la metà di questi sono pensati ancora per la digitalizzazione, innovazione tecnologica, quindi sono ancora soldi che non verranno dati alle scuole, ma che verranno date a queste grandi multinazionali. Detto questo, volendo poi, insomma, i rivoli sono veramente tanti di queste forme striscianti di privatizzazione. E al di là, ecco, con questo chiudo invece, come dire, di un ingresso teorico, ideologico, no? Di un certo modo di vedere il pubblico che è stato portato negli ultimi anni. Si parla spesso dell'aziendalizzazione della scuola, cioè mentre la sanità è stata proprio aziendalizzata di fatto, tanto che oggi non parliamo di aziende sanitarie locali, esatto. Le scuole non si chiamano così, ma dalla riforma Berlinguer in poi, quindi dal 99-2000, con tutte le riforme che ci sono state, hanno sempre spinto in questa direzione, no? Dalla legge sull'autonomia scolastica, che fa di ogni singola scuola sostanzialmente una piccola azienda, con tutte le dinamiche dietro, no? Tant'è vero che il preside non si chiama più preside, ma si chiama dirigente, e così via, che non è però un fatto nominalistico, è proprio un passaggio, no? Un ruolo economico. Sì, diventa di concepire la scuola come un pezzo di pubblico, o concepire la scuola in un altro modo. Sì, è un discorso molto ampio, ma almeno citarlo mi sembrava. Diciamo, assolutamente, ma perché anche. Che sono amministratori, gestiscono dei capitali, dei fondi che devono far più o meno fruttare, diciamo. Che diciamo che è un po' quello che rispecchia un pochino quello che è la situazione di chi in questo momento sta governando le sorti di questa tanto famigerata ripartenza, no? Perché è abbastanza chiaro da questo PNRR, insomma, che l'indirizzo non è realmente quello di migliorare la società, ma insomma è quello di essere produttivi, la produttività prima di tutto, tant'è che ci abbiamo uno che di produzione ce n'ha bello chiaro come si arriva a determinati standard. I discorsi potrebbero essere tanti, però, esatto, però scusami, anche certo. In questo PNRR ci sono parecchi soldi da investire sugli istituti tecnici superiori, che non sono gli istituti tecnici, cioè le superiori, il tecnico industriale, ma sono una formazione post diploma, diciamo parallela all'università, che sono diversi anni che vogliono incentivare, ma sono pochissimi ancora le gli istituti in Italia, e pochissimi gli studenti e le studenti che li seguono questi corsi. Ci vengono buttati molti soldi, e proprio da sottolineare che non sono strutture pubbliche, ma sono quasi tutte fondazioni, cioè sono tutti privati e quasi tutte fondazioni, che significa non avere l'obbligo di presentare il bilancio. Ah, bellissimo. E questa cosa qua io l'aggiungerei e ti farei spendere un altri due minuti per spiegare anche a noi, che perlomeno per me è stata una cosa che mi ha abbastanza scioccato. Una cosa sempre di cui abbiamo parlato, sempre alla scuola, del curriculum dello studente, per dirla, diciamo, in italiano, senza sigle. Il curriculum dello studente, cioè questo nuovo adempimento burocratico sostanzialmente a cui sono stati chiamati tutti gli studenti e le studenti che fanno la maturità quest'anno, questo curriculum dello studente è sostanzialmente una sorta di presentazione, no? Dello studente che si presenta alla... Però aspetta, scusami Elena, nel senso sono stati chiamati, nel senso che sono stati obbligati? Certo, sì, nel senso è un obbligo, cioè non è che una scelta. Il curriculum dello studente è appunto una specie di presentazione che lo studente deve fare per forza, e che dice che è una fotografia, così lo presenta il ministero, una fotografia del curriculum dello studente. Il problema è che c'è una parte a cura della scuola che praticamente fa la sintesi del percorso di questa persona da quando ha iniziato ad andare a scuola alla maturità, e su quello vabbè. Poi ci sono invece altre due sezioni che sono a cura dello studente, in cui lo studente presenta le eventuali certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, il cui conseguimento, io ricordo, è a pagamento, e a volte si possono fare anche dentro le scuole, ma comunque sono a pagamento. E poi le attività extrascolastiche significa attività culturali, artistiche, professionali, eccetera, eccetera. E quindi sostanzialmente la, l'autocertificazione della propria classe sociale, oltre che altro, perché chiaramente non tutti possono permettersi corsi di musica o di teatro molto fighi, né tantomeno magari, non lo so, l'attività sportiva insomma magari un po' meno di massa come può essere il calcio, no? E certo, questo curriculum diventa sostanzialmente una certificazione di una, è vero, di uno stato di una situazione di fatto, ma che entra nell'esame di maturità e che in qualche modo determina una, anche in parte la valutazione finale. Un po' all'americana sta cosa. Un po' all'americana. Vedi, vedi. Ma questa, ma, cioè che voglio dire, l'obiettivo di tutto ciò quale dovrebbe essere? Cioè, e come l'hanno giustificata questa bestialità? Ah, ok, perché l'obiettivo è chiaro, no? Certo, ma... però ok. Ecco, come l'hanno giustificato? Come giustificano tutto, che è un modo molto come smart, molto moderno, molto europeo. Che si allontana dalla scuola vecchia in cui siamo tutti uguali e grigi, eccetera. Così, come giustificano tutto? Lo vuole l'Europa. Ma io, guarda, io scommetto che a breve Google farà un centro di impiego online, no, perché, butterà, guarda, dentro questa cosa qua, secondo perché, me. Cioè, questa significa assistere proprio alla, alla stratificazione materiale delle classi sociali, che c'è proprio, si autostratificano. Cioè proprio... Questa cosa non l'ha inventata Draghi, esatto. Ma bisogna diamo a Cesare quel che è di Cesare. Questa cosa l'ha inventata Renzi, perché era prevista già dalla buona scuola e poi era stata introdotta dai decreti applicativi della buona scuola, che sono della primavera del 2017, e poi questa cosa, come dicevamo, perché nel contributo, come sappiamo, Renzi Draghi sono un bel tandem, insomma, sì, sì, infatti nel contributo, quello che ci siamo inventati di 10 anni fa, io te l'avevo detto, dicevamo una cosa del genere. Vabbè, niente. Comunque teniamo conto che il nuovo ministro dell'istruzione Bianchi, purtroppo per noi non è uno buttato lì all'ultimo minuto, perché è uno che è stato assessore alla scuola per 2 legislature nella regione Emilia-Romagna, tra l'altro evidentemente uno piuttosto scafato, perché insomma lo è stato sia con Errani che con Bonaccini, quindi con correnti molto diverse. Si sa alternare bene. Non è l'unico comunque tra i pochi rimasti, perché comunque hanno fatto un po' lo spartiacque tra i numeretti che gli restavano, tipo Ticket. Comunque, al di là del fatto che è un professore di economia, questo già insomma la dice abbastanza lunga, lui ha come dire caratterizzato il suo mandato, i suoi mandati in Emilia Romagna, proprio nella nello spingere molto in avanti la formazione professionale e quindi, come dicono loro, il rapporto con gli stakeholder del territorio, cioè le aziende che vogliono uno che sa fare questa cosa, allora si fa il corso professionale per quella cosa. Sì, sì, ma questo è proprio un metodo che, per tornare a quello che dicevi prima, insomma, tante realtà che sono legate alla Chiesa già mettono in ballo da tanti anni, ci sono percorsi degli anni 70, insomma, che già facevano questo, formano persone apposta per quello che servirà. Ma non è bene, perché così queste trova il lavoro, ma certo, insomma, certo. Innanzitutto forse vorremmo che il pubblico avesse una visione un po' più ampia e vedete quel territorio che ha bisogno più che quell'imprenditore. Certo. E poi questo, tra le altre cose, ricordiamoci anche che rende questi studenti e queste studenti, una volta che diventano lavoratori e lavoratrici, completamente dipendenti da quella azienda. Esattamente, cioè, questo è il punto. Sì, qua stiamo parlando del concetto di uomo macchina, ma non cioè solo la creazione delle figure professionali e delle persone a uso e consumo dello strumento del capitale, e soprattutto secondo me porta alla svalutazione del, appunto, del, dello studio, cioè dell'apprendere. Perché? Perché comunque se tu mi formi solamente per quello che servirà a quello per cui andrò a lavorare, tralasci centinaia di migliaia di cose che invece magari dovrei sapere, no? Non ti preoccupare, ci penserà la precarietà a farti cambiare lavoro e a farti imparare tanti mestieri. Vedrai. E infatti adesso sto cucinando hamburger. Non farti imparare nessuno, ma a fartene fare tanti. Esatto, insomma. A far male di tutto. Io sto cucinando hamburger, quindi sono diventato il paninaro notturno di Radio Onda Rossa, quindi rivolgetevi a voi tramite per il 30 per 1000. Vi mandiamo anche dei panini grigliati alla perfezione tutte le ore. Come, tutte le ore, a tutte come, l'ore. Dovremmo fare una versione Kleptofer di uno di questi delivery comunque. No, però ecco, tiriamo fuori Elena dal nostro delirio, sì, per infatti, favore. Sì, sì, infatti è vero. Anche perché se no tra poco insomma bisogna parlare poi insomma di vegan, non vegan, questa carne non è allevata, chi l'alleva. Noi facciamo la carne animale, la carne immaginaria. Lasciamo la deforestazione, eccetera. C'è ragione, infatti facciamo carne lasciamo immaginaria bene. Solamente perché comunque questo spazio qua è quello delle stupidaggini. E quindi innanzitutto ti ringraziamo, l'applauso parte spontaneamente dal pubblico in sala, veramente grazie, molto bello ricevere questo applauso. Bello. Vedi. Guarda, infatti adesso lo montiamo qua, un bel pulsante applauso, sì, sul banco della regia, applauso chiunque voglia, se sente bam, applauso, grazie veramente. Ciao, dai, ci vediamo domani in assemblea. Ciao. Grazie ancora, grande Elena. Si è scordata di dire che martedì faranno una puntata molto interessante con Link il carcere, ossia chi entra nelle carceri appunto e prova insomma a relazionarsi con i detenuti e le detenute per dargli un'istruzione adeguata. Ricordiamo che da novembre ormai tutto quanto quello che era l'istruzione ormai in carcere è diventato semplificato così in due parole, dei fogli stampati da una stampante, la sostituzione di tutti quanti i livelli dell'istruzione, addirittura basta pensare che ci stanno le Bibbie anche minori, no? Perché è pieno di persone che non hanno il permesso di soggiorno o documenti, vabbè. Comunque cogliamo anche questa cosa qua per mandare un saluto a chi non ci ascolta della libertà, insomma martedì c'è questa cosa qua e andiamo avanti con l'argomento e con la gloriosa scaletta a muro. Sì, e ci andiamo a sentire un contributo inerente anche a un a un altro grande tema che è investito dalle privatizzazioni, ossia la sanità. La sanità. La sanità, come sappiamo, insomma, dai microfoni di questa radio spesso si è gridato di questo. La sanità è sotto attacco del privato ormai da lungo tempo. Basta ricordare tante vertenze che insomma da questa radio diffondiamo tutte le altre settimane. C'è il coordinamento cittadino sanità tutti quanti mercoledì, se non sbaglio. Abbiamo sentito tutti e tutte insomma di Villa di Burtina, no? Esatto, questa è solo l'ultima delle lotte che viene portata avanti ed è uno dei settori, forse il settore dove il privato davvero si è mostrato, diciamo che è quello che si è sentito di più in questo periodo. Sì, infatti scusate, ci facciamo i gestacci. Sì, appunto, il privato è stato devastato in questo periodo, appunto, quello che era il baluardo della sanità pubblica italiana, cioè la sanità lombarda, si è dimostrato davvero carente. Un po' tutta quanta lo stivale, cioè assolutamente sì, però diciamo che il caso della Lombardia è risuonato come mai, perché appunto era diciamo il fiore all'occhiello della sanità, tutti insomma era il vanto, no? Sì, ma come abbiamo visto è un palloncino che si è sgonfiato in un attimo. Noi ci troviamo qui dagli stessi microfoni dove dicevamo le stesse cose da tanti anni, ossia che soprattutto nella sanità era evidente, è diventato sempre più evidente, ma già lo era prima della pandemia, che la direzione politica voluta appunto da chi ci governa era quella della sostituzione del pubblico da parte del privato, come con tanti altri settori, piano piano si ficcano dentro. Ma infatti questo si riaggancia al discorso che facevamo all'inizio, quello dei futures. E se posso permettermi, la cosa peggiore è che bisogna aggiungere, perché è quello che in questi momenti poi rende alcune vertenze un po' più sentite da tutti e da tutte, ossia più si va verso queste privatizzazioni e più il servizio e il rapporto con il cittadino, con le persone, per non dirla alle 5 stelle, insomma, si deteriora, peggiora, c'è una distanza sempre più più ampia e sempre più incolmabile. Eh sì, perché quando i servizi diventano prodotti da offrire, chiaramente i beneficiari di questi servizi diventano clienti e ovviamente esatto. I clienti vanno trattati come clienti, cioè come gente che deve acquistare, quindi di cui ti devi accaparrare la fiducia, o comunque gente che paga, ecco, quindi questo è il punto. Di conseguenza, eccoci qui. Mi sembra che a questo punto ci avevamo tipo un altro contributo. Sì, ci abbiamo un contributo che abbiamo sentito qualche tempo fa sulla sanità, e ci prendiamo anche una pausa e ci sentiamo tra poco con un altro intervento. Con c'è una pausa, ci andiamo. No, facciamo una pausa dalla diretta. Ricordiamo a tutti e tutte sempre che siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Io Te L'Avevo Detto, 06491750 per chiamarci, esatto, se volete mettervi in contatto con noi, e soprattutto per chi se lo fosse scordato, www.ondarossa.info, c'è il banner Sostieni la Radio, perché è importante sostenere Onda Rossa, visto che sono 44 anni suonati che andiamo avanti senza pubblicità, senza ricevere finanziamenti da nessun partito, quindi mi raccomando, esatto. Andiamo avanti sostenendoci e soprattutto con il vostro sostegno, con il sostegno di chi ci ascolta, quindi è importante che anche quest'anno facciate la vostra parte. La settimana scorsa avevamo sballato i 6.000, questa settimana 7.000, mo controllo se all'inizio della nuova settimana siamo sugli 8.000, verso l'infinito e oltre, del 30, ricordiamo, 30 per 1.000, cioè 30 euro per 1.000. E infatti ricordiamo pure che di noi, che per sottoscrivere è attivo il conto corrente postale, che è 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, perché non certo, via De Volci 56 00185 Roma. Se invece volete fare proprio una cosa spettacolare, venite qua e ce li date in mano. Così qualche settimana fa dei compagni da Bologna che erano venuti per la Cimona sono passati a fare alla puntata scorsa, esatto, sì, a fare un riabbonamento, sono rimasti qua con noi perché noi parlavamo di Cimona, quindi è anche un modo per dare voce alle vertenze che magari attraversate, e soprattutto se non siete venuti mai, venite, esatto, a vedere la radio. Se non venite mai, da settembre ci sarà la scarceranda, però questa è tutta un'altra storia. Ci andiamo a sentire un contributo che appunto vuole mettere in evidenza chi sa che cosa sulla sanità. Dura un bel po', seguitelo, perché comunque è un delirio veramente, forse di onnipotenza, non lo so. Prestate attenzione, prestate zan, zan, zan, zan, attenti. Buongiorno, prego, prego, si accomodi. Buongiorno, grazie. Allora, come mai qui? Guardi, dottore, ho un problema alla caviglia, mi fa molto male, non riesco neanche ad appoggiare il piede bene, quando cammino mi fa molto male. Che c'è? Che c'è tra il piede, scusi? Come che c'entra il piede? Mi fa male la caviglia. La caviglia è l'osso che unisce l'ombelico alla spalla, no? Ma che dice? La caviglia è un'articolazione della gamba? Ma che sta dicendo? Ma dove l'ha letto? Su Google? A parte che si dice Google. Ma è scritto Google. Ma che c'entra? Ma inglese? Poi stavamo parlando della mia caviglia. No, è americana. Cosa? Google è un'azienda americana. Oddio. Non è inglese. Sì, vabbè, insomma, adesso questa è una cosa, la sanno tutti, non è che ci dobbiamo mettere a fare delle ricerche qua. No, sulla caviglia dice, sì, come no. Allora guardi, controllo un attimo sul vocabolario che uso per fare le parole crociate. Come il vocabolario? Allora, vediamo un po'. Caro, casa, castrungarico. Astrungarico? No, castrungarico. Guardi, castrungarico, funzionario dell'impero astrungarico che aveva il compito di soddisfare le esigenze dell'imperatrice, per evitare di cadere in tentazione durante la presa dell'incarico veniva castrato. Ecco, e chi l'avrebbe mai detto? Io ho sempre pensato che i funzionari austriaci fossero uomini tutti d'un pezzo. E invece... Ah, eccolo qui, caviglia, sostantivo, articolazione della gamba. No, senta, ma com'è questa cosa? Ha ragione lei. Ma com'è questa cosa che deve guardare sul vocabolario? Ma che lei l'università medicina non l'ha fatta? No. Ma come no? No. No, guardi, mi scusi, forse io non sono un dottore. Come no? Io facevo le pulizie, poi ci sono stati dei tagli alla sanità, mi hanno fatto fare un corso integrativo per fare le visite di primo soccorso. E in tutto ciò le gambe non le avete studiate? Sì, come no, a voglia, abbiamo fatto due moduli. Allora, è la gamba destra la mattina, la gamba sinistra il pomeriggio. Ma onestamente sono sconcertato, comunque mi sembra un po' troppo poco. Vabbè, alla fine quanto deve studiare uno per conoscere le gambe? Più o meno ce l'abbiamo tutti. Ma che stai dicendo? Cioè, io non senta, capisco. Guardi, allora, se proprio vuole un secondo parere, mercoledì c'è una mia collega che è fissatissima con Grace Anatomy. Ma come Grace Anatomy? O era giovedì? Guardi, non mi ricordo, devi chiedere in segreteria. Comunque, ripassi quando c'è la mia collega. No, vabbè, ho capito, io penso che qua mi conviene andare al pronto soccorso. Al pronto soccorso, a quest'ora? Ma guardi che è chiuso, eh? Ma come è chiuso? Ma che dice? Certo, è lunedì mattina. La gente va a lavorare lunedì mattina, mica ha tempo per andare a curarsi. Che facciamo? Teniamo gli ospedali aperti così. Poi parliamo degli sprechi della sanità. Ma io sto male, a me fa male la caviglia, non riesco a camminare. Senta, se ha tutta questa urgenza, c'è una clinica privata a 5 km da qui. No. Per i precisi, hanno curato pure mio cugino, glielo consiglio. No, guardi. Non se ne parla proprio, io non la voglio pagare la clinica privata, poi già pago le tasse e costa un sacco di soldi. Ah, ma lei è povera. Ma poteva dirlo subito. Allora guardi, le prescrivo un antinfiammatorio, poi metta la parte indolenzita al freddo o al caldo. Vabbè, se guardi, facciamo così. Allora, ascolti. Allora prenda l'antinfiammatorio. Poi alterni degli impacchi freddi a degli impacchi caldi, veda con quale dei due impacchi sta meglio e prosegua con quello. Vede che starà bene, un paio di giorni. No, guardi, senta, sono sempre più confusa, non ci sto capendo niente. Perché devo prendere l'antinfiammatorio? Ma voglio capire, ma qual è il problema? Alla caviglia, dice, deve pagare se vuole capire qual è il problema. Ancora? Ma non posso. E allora ciccia. Sicuro un po' i sintomi e la smetti di dare fastidio. Senta, ma lei le scuole le ha fatte? Perché io? È un calcolo abbastanza semplice. Quanti poveri ci sono? Tanti. Chi li curiamo a fare? Facciamo curare un po' i sintomi, giusto che magari possano continuare ad andare avanti un po'. E poi niente, quando sarà tutta rotta, che le devo dire? Vivrà di espedienti, c'è la Caritas. C'è sempre il suicidio, eh? Ma che sta dicendo il suicidio? Certo, il suicidio, guardi, è una soluzione perfetta, non avrà più problemi di salute dopo e non peserà più sul sistema sanitario nazionale. Ah, certo, naturalmente, voglio dire, se dovesse scegliere questa opzione, abbia l'accortezza di chiudere l'impianto elettrico se usa il gas, e non vorrà mica far saltare il condominio. E mi raccomando, non si butti sotto la metro, non vorrà mica che ci sono dei ritardi solo perché lei è morta. No, vabbè, ma io non... Ma quindi che faccio? Beh, guardi, potrebbe gentilmente andarsene. No, beh, arrivederci. Arrivederci. Agghiacciante, eh? Agghiacciante. Un sacco agghiacciante. Però insomma è abbastanza reale. È uno purtroppo. Spaccato, sì. Purtroppo. Sì. No. Sì. Sì. Andiamo avanti con i contributi. No, andiamo a ripescare un altro invece che noi avevamo pensato per risolvere il problema dell'istruzione, ti ricordi? Ah, sì. No, sì. Non mi dirai che visto che abbiamo sentito anche Elena, non vogliamo fargli sentire la nostra idea. La nostra opzione, diciamo, la terza via. La nostra terza via. Assolutamente. Leptofer presenta Renata Università La Resistente. La didattica a distanza ha segnato l'adolescenza di tanti e tante. Basta! Kleptofer ti offre la possibilità di una vera didattica in presenza, di una vera didattica di qualità. Nessun problema di contagio nelle aule, perché le aule non ci saranno. Gli sterminati spazi delle steppe siberiane aspettano voi. Docenti specializzati in ogni disciplina vi prepareranno ad affrontare ogni prova che la vita vi mette davanti, compresa la Digos. L'arte dello scontro non avrà più segreti. L'estetica e la sostanza marceranno in voi di pari passo. La Resistente è una Green University. Ogni ora sono le 4:20 per noi. I vecchi e pesanti tomi da studiare? Solo un brutto ricordo. Perché noi li trasformeremo in pratici pizzini per affrontare senza indugi ogni concorso. Nuova Università Resistente. Sei assente? È ininfluente. Le lauree conseguite alla Resistente non hanno nessun valore in nessuna parte del mondo. Se proverete a denunciarci, ve venimo a cercare. Affari! Solo roba di qualità a proporre Radio Onda Rossa per voi. Tanta, tanta qualità. Sempre, sempre. Bong di bong di bong. Teghe bong, teghe bong. Questo qua è il nostro nuovo motto. Io te l'avevo detto, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E andiamo avanti. E, Campus di Itland. A questo punto ci concentriamo un pochino su invece sul territorio, perché è quasi. No, è quasi. Diciamo che è arrivato il momento di sentire un compagno che invece lavora sul territorio, quindi ci andiamo a sentire una canzungella che sì, è vero, è un pochino come dire fuori standard per io te l'avevo detto, ma insomma ce l'ha piaciuta e ve la volevamo fare ascoltare. Fuori standard come BPM, però insomma un buon ascolto, restate connessi e soprattutto sostenete Radio Onda Rossa. Trying to just get by. When you get broken down again, it ain't because you didn't try. I tried to count the days that I've been disappointed. So many hard times, it gets disjointed. It's all I'm trying to make a living. Or when you get down again, I'm The Test Case Brothers. Yes, I get up. Pensate che questi addirittura live stanno a fare sta roba. Esatto. Volevamo dirla sta cosetta. Ste chicche solamente sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come d'altronde, oltre che buona musica, niente pubblicità, soprattutto diciamo. Parliamo con i compagni che stanno sul territorio. Sul pezzo, come e si infatti dice. Diamo il benvenuto. Proprio a proposito di compagni che stanno sul pezzo, diamo il benvenuto a Marco delle PSA. Bella Marco. Ciao Marco. Ciao a tutti. Benvenuto su 87.9 della radio, becca degli applausi del pubblico in sala. Grazie. Lasciati applausi. Applausi e anche un po' soul. Di rhythm and blues. Soul, sì, come... Da notare gli applausi sulla fiducia, diciamo, perché vabbè, però infatti, diciamo, bisognerebbe applaudire dopo. Esatto. Vabbè, no, però vabbè. Aspetta, noi siamo fiduciosi. Quelli di Detto sono applausi di incoraggiamento. Ah, vai, guarda, okay. Perfetto. Grazie, perfetto. Allora. Allora, come dicevamo, Marco, appunto, delle BSA, insomma, è inserito all'interno delle pienamente delle dinamiche di cui stiamo parlando in questa puntata, perché come dicevamo prima durante diciamo la chiamata pre-puntata, tocchiamo altri ambiti che non sono solo quelli appunto della scuola o solo della sanità, ecco, ed ecco che ci siamo sul territorio. Il territorio che è uno delle note dolenti per quanto riguarda le privatizzazioni e lo sfruttamento delle risorse appunto umane e territoriali. Come tanto è, insomma, che siamo partiti appunto dall'acqua, dal referendum che tutti ci ricordiamo sull'acqua, che è una di quelle cose che sono entrate proprio nella capoccia di tutti e tutte le persone, insomma, che si interessano minimamente, e è proprio difficile anche, secondo me, tirargliela fuori, no? Esatto. In questo caso andiamo un pochettino a vedere che succede nel territorio che è quello del sisma, del cratere. Esatto, perché specificatamente nella zona delle Marche, diciamo, principalmente. Sì, Marco, perché Marco, insomma, sì, non solo Marche, però. Non solo Marche. Però insomma, ci siamo con te che qui al telefono, tu stai proprio lì sul campo, e la cosa interessante è che c'era anche ieri qua a Roma in manifestazione una parte di compagni che stanno lavorando lì insieme a te. Innanzitutto diciamo, insomma, qual è il nome della lotta che state portando avanti e in che cosa consiste per gli ascoltatori e le ascoltatrici, così facciamo un po' di infarinatura. Allora, facciamo un'infarinatura, diciamo, partendo dall'inizio, no? Vabbè, io non spiego cosa sono le brigate di solidarietà attiva perché in radio siamo stati chiamati molte volte, certo. C'è stata una corrispondenza spesso, sempre, costante e continuativa della radio nel sentire le vicende più calde del terremoto, quindi non dico nulla. Da quell'esperienza è nata quella che noi abbiamo chiamato rigenerazione ecosociale, cioè le brigate non se ne sono andate via nel momento in cui comunque sono nati i comitati dei terremotati, un po' di auto-organizzazione territoriale, definita la fase più intensa dell'assistenza alla popolazione, ma hanno strutturato sul territorio dei progetti di medio-lungo periodo per rigenerare quei territori e vedere che tipo di futuro alternativo potessero avere rispetto allo schema di sfruttamento del territorio che anche sulle zone terremotate vedevamo arrivare con la scusa della ricostruzione. Da qui è nata l'analisi di una tradizione antichissima che però è rimasta nel nostro ordinamento giuridico, che nelle Marche si chiamano comunanze agrarie, cioè sono usi civici, beni comuni, giuridicamente collettivi, cioè di proprietà né pubblica, cioè inteso come Stato, né privata, ma esattamente del collettivo umano che sopra ci vive. Questo retaggio che arriva dalla storia è stato ricodificato con una legge da 168 del 2017, le brigate hanno impattato questa storia con le comunità che ci vivono e hanno cominciato un lavoro di rigenerazione di queste comunità, vivendo esperienze quindi di gestione, di autogestione collettiva di frammenti di territorio, giuridicamente fondata tra l'altro, non come occupazione di quello che si rivendica come bene comune, ma come risorgenza di quello che è giuridicamente un bene comune, ma ci se n'era dimenticati, e quindi gestendo la risorsa idrica, nella frazione di Forca di Montegallo, gestendo il risanamento di una faggeta, prendendo in gestione 11 ettari di castagneti per opporsi con le creme di marroni all'invasione dei noccioleti della Nestlé, affiancando alle esperienze di queste forme antiche e modernissime di bene comune anche esperienze invece più attuali, come le forme giuridiche di cooperativa di comunità tipo Rimaplo, per capirci, e produrre quindi elementi di altra economia esterna ai meccanismi della grande distribuzione, del mercato, dell'invasione, dello sfruttamento del territorio a fini turistici delle solite multinazionali. Che cosa è successo di meraviglioso dopo questo che si è piantato sul territorio? Che tutte le realtà vicine, prossime, dove le brigate avevano operato, in Abruzzo, nel Lazio, in Umbria, nella vicenda del terremoto, hanno condiviso questo percorso di crescita e di ricerca sul terreno dei beni comuni. Le brigate hanno pubblicato un documentario di lavoro quasi antropologico, di scavo, ricerca e proposta, che si trova editato a Distribuzioni dal Basso, si intitola Le terre di tutti, e attraverso la diffusione di questa conoscenza sono nate vertenze fuori dal territorio terremotato sulla stessa base dello spirito che le brigate proponevano. Per cui, ad esempio, ed erano sicuramente in manifestazione sabato, i ragazzi dei Viscoli del Sinarca, che hanno scoperto che il bosco di Corundoli era un uso civico, cioè una forma simile a queste comunanze di cui parliamo nelle Marche, e esercitando la rinascita di quell'uso civico, cioè il fatto che quello fosse un bene della comunità, che ha delle peculiarità straordinarie, è intergenerazionale, è intangibile, è incedibile, hanno fermato la multinazionale SNAM, che ha visto il suo cantiere, il suo scavo, fermarsi sulla soglia del bosco, dove i manifestanti gli hanno impedito di accedere esercitando l'uso civico. Ma non solo questo, è nato un altro collettivo, si chiama Balia dal Collare, dal nome di un uccello tipico della zona del Terminillo, che sta bloccando sullo stesso terreno degli usi civici. Ci sarà l'udienza al commissariato degli usi civici proprio domani, tra l'altro, l'invasione degli impianti sciistici del solito sviluppismo gigantografico delle grandi opere come elemento di rilancio dell'economia, sfruttando la fame di territori depauperati dal terremoto. E quindi c'è stata una proliferazione di momenti di rivincita sul terreno dei beni comuni contrapposti all'aggressione di grandi opere di multinazionali che penetravano nel territorio tentando di depredare non solo sull'area terremotata, ma anche poi di quelli che dentro quell'area hanno fatto esperienze e hanno esportato quella forma di lotta anche su altri territori come il Molise o il Lazio del Terminillo. Certo, la montagna di Roma, che infatti da sta parte è già sta sventrata, mo passiamo all'altra. Giustamente. Pronto? Sì, sì, dicevo, giustamente dico il Terminillo, la montagna di Roma, che già da, sì, da questa parte già sta bella sventrata, continuiamo anche dall'altra parte. Certo. Questo collettivo sta facendo, devo dire, una battaglia, è diventato, come dire, il motore di una riattivizzazione anche dell'ambientalismo storico, che però si era un po' fermato, rivitalizzando un'opposizione che insomma era andata scemando, scovando carte, mobilitandosi, facendo cammini, facendo manifestazioni. Si è creata una rete, è nato un cammino del brigante, per esempio nella zona terremotata, che connette l'esperienza dell'auto-organizzazione territoriale post-sismica con il tentativo di bloccare l'hub del gas. Guarda, è da un po' che ne parliamo di venire a farlo il cammino del brigante, quindi presto insomma ci veniamo a fare una cavata. Sì. Quindi diciamo c'è un fiorire di esperienze, certo, realtà piccole, collettivi, movimenti, frazioni che si auto-organizzano di paesi, ma sicuramente interessanti anche come modello, come idea di alternativa possibile nella costruzione non solo di conflitto e di mobilitazione, ma anche nella costruzione di autogoverno, alternativa concreta, certo, un autogoverno reale, il lavoro in maniera diversa, vivendo in maniera collettiva la faggeta lì, la riorganizzata, la pulita, la rimessa in campo col lavoro collettivo, la comunità. Qua parliamo di padroni. Parliamo di contropotere, Fars. Non so se è ancora un elemento di contropotere, sicuramente è un elemento, come dire, di alterità rispetto al sistema nel quale queste comunità sono inserite. Sì, sicuramente è un esempio importante da seguire, perché anche se la dimensione in cui queste operazioni prendono corpo sono ridotte, però poi l'esempio è fondamentale per creare tante piccole luci che poi in uno scenario collettivo fanno un bel faro, diciamo, un bel faro. Assolutamente, adesso secondo me in questi momenti in cui appunto riusciamo a spolverare le reti che 10 anni fa ci hanno fatto anche raggiungere gli obiettivi, che poi vabbè il fatto che purtroppo provano a renderli vani, questo è un altro discorso, però rispolverare le reti e creare sempre di più battaglie sul territorio è una cosa importantissima. Quello che dicevo prima, la cosa interessante è che ieri i tuoi compagni stavano qua a Roma e oggi noi li abbiamo chiamato a te, te oggi stai là. Perfetto, guarda, sì, esatto, guarda, quindi, poi vedi queste io ieri sono arrivato alle 3:30 qui a Roma alla manifestazione nazionale e ho mandato la foto a Giacomo dei due compagni che stavano lì con tutti quanti gli striscioni e le cose. Oggi siamo sentiti tramite Giacomo che c'aveva il contatto, quindi da paura. Non sì, so se siamo una parte proprio nella messa in rete esatto, diciamo, di tutte queste realtà, e questa è una proliferazione tra l'altro anche inaspettata, che non ci aspettavamo, e che poi connette lotte e vertenze che tra di loro hanno la stessa base, assolutamente, configgere la mostruosità del capitalismo, assolutamente, perché poi insomma l'abbiamo detto anche prima, ora come non mai, insomma, basta guardare il pubblico e la sanità pubblica, escono fuori insomma quali sono poi le reali conseguenze di quello che da un sacco di anni andiamo a predicare in giro, insomma, diventano evidenti per tutti e per tutte. Sì, io posso dire nel piccolo cosmo che attraverso come militante che la pandemia si è segnato in luoghi già colpiti, un aumento di sofferenza, se vogliamo, anche di depressione, però anche ha squadernato una realtà in maniera forte. Oggi molto più di prima sento parlare di beni comuni, di ruolo pubblico nell'economia, di come dire, riacquisizione di servizi come diritti, soprattutto quello sanitario, ma non solo, in maniera forte in aree interne, in aree montane, in terre alte che si consideravano, come dire, ormai pensate e come dire destinate al declino. Oggi si ricomincia a parlare, no, l'ospedale di comunità non chiudiamo, l'ospedale montano serve, la sanità, esatto, sì, è un sì, diritto, certo, non è un costo, certo. Cose che magari 2 anni fa non sentivi, insomma, l'ideologia dominante per cui tutto doveva essere in mano ai privati, privato è bello, solo i privati sapevano che cosa fare, beh, comincia a intaccarsi, la gente riscopre anche la possibilità di un'altra strada. Assolutamente diventa tutto quanto più reale nei momenti di crisi, no? Certo. E poi insomma quindi è un piacere ritrovarci su diversi piani, insomma, sia in piazza che dai microfoni, quindi se non hai altro da aggiungere ti ringraziamo. No, continuate a monitorare l'attività delle brigate, perché la funzione di una radio come la vostra, di un collettivo politico, è quello di mettere in rete le lotte, e abbiamo bisogno, come il pane, di conoscenza, di condividere strumenti e di condividere lotte, intersecando lotte apparentemente diverse su una strada comune. Assolutamente, è quello che facciamo, a tutti voi. È quello che facciamo da 44 anni appunto, e quindi è quello che continueremo a fare. E quindi, come sempre, i microfoni sono aperti. Ciao, ciao. Ti salutiamo e ti ringraziamo. Dai, forte. Un abbraccio. Grazie a voi. Ti lanciamo l'ultimo applauso che parte spontaneo dal pubblico in sala. E dai, forte. Ciao. Ciao. Va bene, ci andiamo a sentire al volo una canzone perché siamo in mega ritardo e ci abbiamo. Anzi, no, non è vero, andiamo a sentire il fake news. Che anche oggi è insieme a noi. Poi ci sentiamo una canzone e ci vediamo per i saluti. Oggi andiamo un po' più lunghi. Vabbè, Buonasera e benvenuti a Fake News 24, le notizie di oggi. Confindustria contro il reddito di cittadinanza, Giovannini e le privatizzazioni, nuovi dubbi sull'origine artificiale del Covid. Una generazione che non ha conosciuto la guerra come può crescere se non già avvezza a sentire soddisfatti i propri bisogni? Ecco perché in questi anni molti imprenditori, con un forte senso civico, hanno sfruttato i lavoratori per abituarli alle difficoltà e poterli far così maturare. Purtroppo con l'introduzione al reddito di cittadinanza questo non è più possibile e viene tolta la possibilità ai giovani di essere sfruttati e quindi di crescere, commenta Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, che chiude dicendo: spero che il governo Draghi tolga il reddito di cittadinanza al più presto per poter ridare ai giovani la possibilità di crescere e agli imprenditori di mantenere il loro importante ruolo sociale. Il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini spiega la deriva privatizzante che in questi anni ha portato alla privatizzazione anche dell'acqua malgrado il referendum del 2011. Di chi sono i beni comuni? Di tutti, cioè dei cittadini. E chi possiede le aziende private? Dei cittadini. Quindi la privatizzazione è in realtà un atto pubblico, ma più smart. Ecco perché abbiamo puntato in questa direzione, ha concluso il ministro delle Infrastrutture. E la comunità scientifica ha cominciato a interrogarsi se il Covid non sia stato sviluppato in un laboratorio di Wuhan. Inventarsi le cose per avere la scusa di attaccare ha funzionato tanto bene con l'Iraq, perché non ripetere, ha detto Biden. Naturalmente non attaccheremo mai militarmente la Cina. Basteranno un po' di embarghi per rallentare la crescita dell'economia cinese, ha concluso il presidente degli Stati Uniti. E per i Fake News 24 è tutto, buona serata e linea allo studio. Applausoni, ci andiamo a sentire una canzone che abbiamo scoperto ieri a Piazza Vittorio quando il corteo è arrivato alla fine, prima di salutarci. E ci è piaciuta. Ci è piaciuta e ve la facciamo risentire, a tra poco. Un branco di ladri a volto scoperto andarono dritti dall'uomo preposto, dalla gente per salvaguardare l'interesse della popolazione. Gli offrirono soldi, un mucchio di soldi, per coprire un mucchio di imbrogli e diventare ancora più potenti, sempre più pochi, sempre più forti. Basterebbe privare la gente anche del loro diritto più grande, perché con lei faccio di tutto, lei sta alla base del mio organismo e dentro di me, sulla mia pelle, fra le mie labbra, quando siete dentro la terra che coltivo, scende dai monti, piange dal cielo, dona la vita a tutte le creature, acqua, bene comune. Mi lavai di meno per risparmiare, vendetti la terra che lasciai seccare e vidi la povera gente appassire e i soliti pochi nel loro nuotare. E come una goccia che non cambia il mare, un uomo si accorge di essere uguale e allora in tanti con l'acqua alla gola si unirono in una voce sola, È bagnato. Lavoro tardi. Per forza. Bravo. Dai. E grida che l'acqua non può aver padrone, perché di tutti è un bene comune, perché con lei faccio di tutto, lei sta alla base del mio organismo e dentro di me, sulla mia pelle, tra le mie labbra, quando siete. Sempre 87.9, sempre la Onda Rossa. Questa ce la siamo pure cantata. Simone che se la canta, sì, esatto. Oggi tutte sdolcinate, oggi tutte un finale sdolcinato per io. Sdolcinato. Ah, questa era quella che avevi sentito in manifestazione, no? Era quello, sì, che era quello. Un po' il tema della manifestazione di ieri, e noi, insomma, che bello, visto il contesto, ci piace prolungare. La chiusura del corteo. E comunque, diciamo che abbiamo provato a modo nostro a dare un po' un senso alla manifestazione che abbiamo attraversato ieri. In che senso abbiamo provato a dargli un senso? In che senso, scusa? Abbiamo provato un attimo a capire qual è la direzione dell'andamento previsto da chi ci governa per quanto riguarda la privatizzazione di tante cose che dovrebbero restare pubbliche. L'abbiamo provato a fare a modo nostro, ringraziamo chi ci ha sentito e dagli forte. Io te l'avevo detto, torna la settimana prossima. Col tempo... punto interrogativo, torna la settimana prossima. Non lo so, è vero, infatti, noi forse torniamo. Forse torniamo sabato, forse torniamo. Continua sotto. Forse torniamo domenica prossima, non lo sappiamo. Stiamo provando a fare degli esperimenti qua e là. Ci andiamo a sentire un ultimo contributo che diciamo. È la poesia del bambino Greto. O della, non lo so, poi scoprirete, insomma. Sì, poi diciamo che tra un pochino ci risentiremo per i saluti finali, però insomma questa qua è l'analisi che ci è venuta da fare a fine puntata di oggi. È andata così, quindi te l'avevo detto, è quasi tutto. Sparate questi contributi della redazione, dagli forte. Zan zan zan zan. Branco di ladri avvolto. No, non è vero, ma sono sbagliato. Gli è piaciuta così tanto che ha detto: mo la rimettiamo. Pull up and come again. Pull up and come again. Zan, zan, zan, zan. Dai, dai, Greto, vieni. È arrivato il momento di recitare la poesia. Dai, sali sulla sedia. Ma io mi vergogno. Non lo voglio fare. Dai, ti do 2000 euro. No. Sì. Con 2000 euro non ci pago manco l'inchiostro che ho messo per la penna. Allora la villa di Capalbio. Allora sì, va bene. Caro popolo italiano, 10 anni sono passati da quando hai votato che l'acqua non deve essere del privato. Intanto noi ti abbiamo fregato e l'acqua, la sanità e tanto altro abbiamo privatizzato. Ma non da soli, grazie a te, perché dall'altra parte stai voltato. E tutto fai tranne che far sentire gestore controllato. Ma come? Ma se lo capisce anche un bambino che il compito di un cittadino non si esaurisce con una X sul simbolino. Ma continua fuori dalle urne perché, malgrado le tue paturnie, dovresti controllare, blastare e cacciare il gestore che ti vuole fregare. Mi dici, Netflix, Amazon e il web mi hanno addormentato. Ma smettila che te del bene pubblico mai è importato. A meno che non ti abbia portato un guadagno privato. Ce la faremo, urlavano dai balconi, quegli stessi che picchiano infermieri coi bastoni. Qui ho come l'impressione, e direi ha ragione, che se non imparate a essere comunità, come con i diritti dei lavoratori, tutto in un buco nero finirà. Bravo, Greto, bravo! Applausoni per Peppe, Nena. Agghiacciante anche questo, direi. Agghiacciante. Ivanov Calabrov, che comunque fanno parte del nostro malgrado della reazione, io te l'avevo detto. Quindi, insomma, per chiudere, facciamo qualche piccola considerazione noi, visto che oggi abbiamo dato voce praticamente solamente agli ospiti e infatti oggi meno male abbiamo taciuto e i contributi, per tirare un pochino le somme, insomma, Riappropriamoci dei nostri spazi. Esatto, di ciò che è il nostro. Momento giusto di riappropriarci di ciò che è nostro ora, più di sempre, proprio perché comunque quello che abbiamo intorno cambia, continua a cambiare continuamente, vengono date delle scosse forti e vengono date delle scosse forti nelle direzioni che a noi non piacciono, quindi come abbiamo ci visto, sono cose che non sono vendibili, come abbiamo visto, esatto, e questa qua è una cosa che abbiamo visto insieme a Renato, poi abbiamo visto insieme a Marco che bisogna spingere sulle lotte e soprattutto incentivare le reti, no? Esatto, che è la cosa più importante, esatto. Più importante esserci, esatto, con tutte quante le contraddizioni che poi sono quelle che ci portiamo anni avanti da un sacco di anni, ma sono quelle che ci rendono unici, perché okay? È molto difficile, esatto, perché sono quanto è difficile appunto creare una rete che 10 anni fa ti porta avere il 90% del consenso è molto popolare. Difficile, quanto è difficile è tanto difficile, però ce la facciamo puntualmente quando serve, mettiamo mattoncini qua e là per cercare insomma di sì, perché noi è difficile perché noi non profondare, perché di questo si tratta, è difficile perché noi non parliamo di paura, cioè quello di cui no assolutamente noi, no esatto, noi non combattiamo la paura, il nostro compito è quello di combattere, esatto, la paura, noi no? È quello che facciamo al contrario della paura, parliamo di coraggio, di speranza, insomma di tutte cose, ma nemmeno di coraggio, semplicemente di lotta di esatto, lotta, per lottare ci vuole coraggio. Ma dici no? E soprattutto di continuità. Vabbè, però siamo andati su metafisico, andiamo oltre. Poi insomma abbiamo visto insieme a Elena la difficoltà nel resistere anche sotto il punto di vista della scuola e abbiamo visto anche comunque un po' dappertutto, tutti quanti i vari settori, sanità, scuola, tutti quanti i settori, quelli che sono usciti fuori di più durante questa pandemia, le tematiche e le problematiche, e quindi automaticamente i modi che usano per infiltrarsi sono sempre gli stessi, quindi dei lavoratori, quelli meno in vista, quelli che fanno meno clamore, piano piano ci arrivano da dietro e entrano con le privatizzazioni. Tac, come la variante Delta, capito? Tac, che ti è arrivata, tu ti aspettavi la pandemia, finite, beh, tac. Sì, ma questa cosa qua, se la porti a 10 anni da adesso, significa che praticamente non c'è soluzione. Non è che non c'è soluzione, è che è proprio. Vabbè, scritto tutto. Noi l'avevo detto, ogni tanto ci proviamo a portarci avanti. Abbiamo sentito anche una puntata 10 anni fa di questa trasmissione. Che, incredibile! Noi stavamo in altri luoghi e in altre, ma quello che ci contano. Distingue comunque quello di non fermarci mai, quindi ci andiamo a sentire l'ultima canzone, te l'avevo detto tutto, un saluto a tutte di e nuovo, tutti. Grazie a chi ha ascoltato, compagne e compagni, bella buona Massimone esistente, buona settimana risata a tutti e tutti e tutte e tutto e dai e caparezza alla settimana prossima, tracciamo, se fermiamo. Passo nella selva, senza briglie, senza sella. Vado incontro alla mia libertà, già da come marcio sembra Selma. Alle spalle la mia guerra, io la stella della Senna. Tu che invidi la mia vita, io che penso sa di un cazzo, sembra Satan. Sì, suono, non ho mai scalato una montagna a mani nude, free. Solo, non ho mai nuotato tra i piragni a lungo il fiume Mi. Muovo, non ho mai viaggiato sull'Apollo 13, sento dire solo Apollo 13, non ho fremiti, non ho mai lasciato la Nigeria con i miei risparmi chiusi dentro il palmo, non ho mai sfidato la miseria nei deserti caldi chiuso dentro un camion, vivo le mie storie magari, chiuso in casa come Salgari, chino sui libri e sui manuali, Michi sei Lazzaro, dai alzati e cammina, guerrero cammina. Guerrero camina. vicino. Arriva in Australia e lavora per una fontina di cibo. Qual'unica strada che insegna qualcosa è la figlia di Gino. Cammina mio padre, che ha perso suo padre, e vaga da solo ed è solo un ragazzo che impara a indossare le scarpe da uomo e cammina lungo un sentiero di sogni infranti. Guarda dritto, tira avanti, chi ha paura perde tempo. Guarda, ci tendire a Gandhi, arte mi devi guidare. Fa uno sforzo di natura di vegliare il mio percorso. Dalla borsa tiro fuori un grande corno per soffiare via il mio panico dal corpo. Col coraggio in tasca la mia vita passa, camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca. Cammina, guerrero, cammina, pure il sendero del dolore e l'allegria. Cammina, guerrero, cammina, pure il sendero del dolore e l'allegria. Cammina. Faccio un passo nella selva, senza briglie, senza sella. Vado incontro alla mia libertà. Nella selva, senza briglie, senza sella, vado incontro alla mia libertà. Lasciamo al compagno automatico che vi viene compagnia fino alle 9, quando o partirà una replica delle idee nella presa oppure ci sarà insomma la trasmissione. Che non sono come noi, loro le repliche le programmano, non sono mica come noi. Che non sono come noi, loro programmano le repliche, ma soprattutto parlano di cose serie, cioè nel senso riescono a trattare seriamente gli argomenti a differenza nostra. Quindi dagli forte l'idea della presa alle 21, sempre su Radio Onda Rossa 87.9, che dovete sostenere andando sul sito www.ondarossa.info e cliccando sul banner. Dai, ciao. Clicca.